non è questione di volersi denigrare e di non riconoscere le qualità degli italiani, sono i numeri. I tedeschi hanno 20-25 mila posti di terapia intensiva nei loro ospedali, hanno molti più ospedali e una sanità distribuita sul territorio molto, in maniera molto migliore della nostra. Noi siamo ancora con 6-7 mila posti di terapia intensiva, esattamente come a marzo, dai ragazzi. Ma tutti i controlli che venivano fatti nel periodo del lockdown, quello proprio vero, adesso dove sono? Io credo che la Calabria abbia diritto ad avere un coordinatore per questa pandemia. Come ce l'hanno tutte le regioni, è obbligato lo Stato a trovare fuori un coordinatore. Se nessuno si fa avanti, mettete un coordinatore militare, un capo militare. Oh no, ma caro ascoltatore, forse si è perso un passaggio, perché il capo militare, il coordinatore militare, la Calabria ce l'ha già avuto, era il generale Cotticelli, ex generale dei Carabinieri, che è stato il primo ad essere fatto fuori dopo quell'intervista imbarazzante a Titolo Quinto, nella quale diceva di non... che non sapeva che il piano pandemico spettava a lui, che fare il piano pandemico spettava a lui, e poi... le successive dichiarazioni, forse sono stato drogato, forse sono state lendrine. Veramente, veramente non so. Che non ci sia paragone tra noi e la Germania, mi pare che non ci sia dubbio, amico, fin dall'inizio della pandemia. E la questione dei controlli mi informerò sui dati che al momento non ho su quanti controlli vengono effettuati, però tenga anche presente che il fatto che sono misure più morbide, che ci sia una grande differenza tra regione e regione, fa sì che evidentemente il tipo di controllo sia diverso, diversificato sul territorio. Aggiungo che ho una mia impressione che a questo giro abbiano voluto essere più morbidi, perché c'è una certa stanchezza da parte della popolazione, e quindi evitare controlli troppo duri. È una mia impressione, magari sbaglio, però la sensazione è questa. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 18 novembre, sono le 7:22 e 22 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia, con i giornali che variano un po' sui titoli, ma rimangono più o meno nell'ambito del Covid. Se il Messaggero apre con un sacrifici per salvare il Natale, con il governo che quindi non ha fretta di riaprire, molti quotidiani aprono sulla vicenda calabrese. Conte che fa scudo a Speranza, in Calabria è colpa mia, così titola La Stampa. Calabria, commissari in fuga, titola La Repubblica. Conte che dice la colpa è mia. Il Giornale, di flop in flop sulla Calabria, appunto, nella quale salta il terzo commissario in 10 giorni. La Verità, l'unico commissario che serve è quello per fermare Giuseppe. E affianca tutto questo una foto vecchia, evidentemente, dell'ex rettore della Sapienza Gaudio con il presidente del Consiglio che si stringono la mano. Scelgono invece di aprire sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella il Corriere della Sera, il Manifesto e Avvenire. No a polemiche scomposte, il titolo del Corriere. Mattarello è il titolo del Manifesto. Si vince solo se uniti, è il titolo di Avvenire. Il Fatto Quotidiano invece ci informa nel suo titolo di apertura, nel suo titolo forte di prima pagina, che la Moncler rivuole i milioni da Fontana perché sono una parte del denaro donato da Moncler è servito alla costruzione dell'ospedale in Fiera. La Regione Lombardia gli ha detto: lasciateci questi 8 milioni che avanzano e li utilizziamo per qualcos'altro, sempre ovviamente per esigenze sanitarie. Ebbene, Moncler gli ha detto no e gli ha detto che i soldi li rivuole indietro. Libero ci fa sapere che Mezza Italia rifiuta il vaccino, presenta un sondaggio, il 35% dei cittadini non ha intenzione di farsi iniettare il siero anti-Covid, mentre il 15% è indeciso. Il Quotidiano Nazionale sceglie invece la questione degli statali. Il titolo è aziende in crisi e scioperano gli statali, perché ieri è stata annunciata la data, sarà quella del 9 dicembre. Il Sole 24 Ore parla delle borse, l'indice globale segna il record, ci parla anche del flop dei piani per le città, in 8 anni 21 interventi ma speso il 20% dei fondi. Questi i titoli principali. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso. Poi molti titoli in prima pagina anche sulla vicenda di Dino Giarrusso, la iena che finisce sbranata, così dice il giornale. Ci arriveremo anche a quello. La storia diversa dalla quale voglio iniziare è una storia di giustizia che arriva da pagina 22 del quotidiano La Repubblica. Forse la vicenda la ricorderete. Il 2 giugno del 2018 un sindacalista dei braccianti, e siamo proprio in Calabria tra l'altro, Soumaila Sako viene ucciso da un colpo di fucile all'ex fornace, un'ex fabbrica sotto sequestro a San Calogero nel Vibonese. Era andato là Soumaila Sako perché? Perché dato che era bravo, oltre ad essere un sindacalista dei braccianti, era bravo con gli attrezzi e con queste cose qua, era andato a recuperare dei rottami che servivano a ricostruire pezzi di baracca nella baraccopoli di San Ferdinando, perché ancora così è la situazione dei braccianti tra Calabria e Puglia. E allora Alessia Candito ci racconta che il killer, l'uomo che l'ha ucciso, è già a casa. Stanno ammazzando Soumaila di nuovo. È incredulo Fofana Madufune, lui che ha visto l'amico ucciso da un proiettile che da un altro colpo è stato ferito, lui che ha puntato il dito contro l'assassino, gli ha testimoniato contro in tribunale e assistito alla sua condanna a 22 anni, non si capacita che il killer sia già fuori dal carcere. Ma così ha deciso la Corte d'Appello di Catanzaro, che a soli 6 giorni dalla condanna per omicidio volontario ha concesso i domiciliari ad Antonio Pontoriero, quindi condannato, 44enne di San Calogero, responsabile, ha stabilito la Corte d'Assise dello stesso distretto dell'omicidio del sindacalista USB Soumaila Sako, ammazzato a fucilate il 2 giugno del 18 nel Vibonese. Una morte voluta è emerso nel processo, cercata prendendo la mira e sparando 4 colpi fin quando il giovane non è crollato per terra. Ma per la Corte d'Appello, che ha accolto l'istanza ai legali Francesco Muzzo Papa e Salvatore Stagliano, non c'è ragione per cui Pontoriero debba scontare in carcere la lunga pena. Le prove sono cristallizzate, sostengono non c'è modo di inquinarle, i domiciliari col braccialetto elettronico bastano a scongiurare il pericolo che l'uomo si dia alla fuga o torni a commettere lo stesso reato. E qua poi ovviamente viene ricostruita la storia. In questa ex fabbrica zeppa di rottami e veleni sotto sequestro, Soumaila stava cercando appunto dei rottami per costruire una baracca nel vecchio ghetto di San Ferdinando. Per Pontoriero era convinto che quel pezzo di terra fosse roba sua, sebbene non ne avesse titolo, lo considerava la sua proprietà. E contro quelli che tra virgolette li definisce Alessia Candito i Niri, si è sentito in diritto di sparare con il suo fucile. Madieri lo ha raccontato ai carabinieri e questo è successo. Al momento, condannato a 22 anni, Antonio Pontoriero è ai domiciliari. Farà discutere, a proposito di migranti e di giustizia, quello che sta avvenendo in Grecia, dove un po' lontano dai nostri occhi e quasi lontano dai riflettori italiani, dove la Turchia, davanti alle resistenze europee di elargire nuovo denaro, sta di fatto aprendo le porte dei campi rifugiati e facendo ripartire l'afflusso verso la Grecia. Cosa succede? Ce lo racconta Cristiana Mangani a pagina 17 del Messaggero. Succede che, e racconta la storia di un migrante, il figlio è morto durante una traversata dalla Turchia alla Grecia. Volevano raggiungere Samos per poi chiedere asilo, si tratta di afghani. Il bambino afghano di soli 6 anni è annegato senza che il padre che era con lui potesse salvarlo. E ora le autorità greche hanno arrestato il genitore. L'uomo è accusato di aver messo in pericolo il figlio, un'incriminazione che non ha precedenti in casi come questo. Il 25enne afghano rischia almeno 6 anni di carcere. Il suo avvocato della ONG locale Still I Rise ha spiegato che sebbene una richiesta di soccorso sia stata inviata alla Guardia Costiera a mezzanotte, i soccorsi sono partiti solo 6 ore dopo. L'avvocato sostiene che la polizia dovrebbe indagare su quel ritardo, non sulle azioni del padre, che ha invece chiesto aiuto appena sbarcato. Dal portavoce della Guardia Costiera di Atene, poi è arrivata la replica, i soccorsi sono stati ostacolati dall'oscurità e nel frattempo il bambino è morto insieme agli altri migranti. E nessuno è riuscito ad aiutarlo e a soccorrerlo, visto che non sapeva nuotare. E adesso il padre è stato arrestato, indagato e rischia 6 anni di carcere. Oh, visto che siamo sulla giustizia, sapete, care ascoltatrici, cari ascoltatori, quante volte ci siamo occupati da queste parti della vicenda di Palamara e ci siamo anche un po' lamentati, a dire il vero, del fatto che fosse... risultasse di fatto l'unico capro espiatorio di tutta questa vicenda di promozioni e passaggi nel mondo della magistratura. Ebbene, apprendiamo che ci sono altre 27 toghe nel mirino, lo apprendiamo da vari quotidiani che la tengono un po' bassa, un po' più ampia la troviamo sul Giornale a pagina 13. Il procuratore generale della Cassazione ha fatto sapere che sono 27 i magistrati per i quali la procura generale ha già esercitato l'azione disciplinare per i fatti emersi da chat e intercettazioni e ha sollecitato il CSM a muoversi. Rimangono sotto processo tra l'altro gli ex consiglieri del CSM Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, che parteciparono alla famosa riunione del 9 maggio all'hotel Champagne sulle nomine ai vertici delle procure, e ce ne sono altri. Vedremo come andrà a finire la cosa, però mi sembrava doverosa in questa sede la segnalazione. Ci fermiamo, ci prendiamo una pausa e poi ricominciamo da questo sciopero degli statali sul quale si stanno addensando molte polemiche bipartisan e a volte anche interne allo stesso sindacato. Uno sciopero proclamato per il 9 dicembre, indovinate un po', l'8 dicembre è festa ed è un giovedì. A tra poco. Mattino. Sento il radiogiornale che dice che un italiano su 6 non si vaccinerà. Bene, a questi italiani che non si vaccineranno, quando si ammaleranno, spero che lo Stato gli faccia pagare tutte le spese sanitarie, fino all'ultimo centesimo. Vaccino o mascherina? Io attualmente, caro Simone, mascherina. E per il futuro... credo ancora mascherina. Il problema del suo paese sono le criminalità organizzate, sono la corruzione. Beh, quello è il problema. Ma è normale che la gente giunce va. Stiamo a parlare della Calabria che comanda l'80% del traffico in Europa di droga. Stiamo a parlare della Calabria che comanda Milano dagli anni 80. Sappiamo tutti che cos'è l'andrangheta. Pezia, buongiorno. Le sensazioni riguardo ai controlli rimangono sensazioni, ma un dato di fatto è che anch'io non ne vedo. I controlli ci vogliono perché in giro c'è gente che si comporta male. E va bene, va bene. Prima di tutto una correzione, Ho detto che era che giovedì l'8, in realtà è martedì, quindi l'ipotesi mega ponte sarebbe sabato, domenica, lunedì, poi martedì è l'Immacolata e il 9 sciopero. Sarebbe. Poi per chi vuole allungare, in fondo sono solo 2 giorni. Poi si obietta sempre, si dice quando uno sciopera però perde un giorno di stipendio. Sì, certo. Detto ciò, sullo sciopero degli statali, e poi ci arriviamo ai vaccini, lo dico agli ascoltatori che ci hanno mandato gli WhatsApp audio, arriviamo agli statali. Ai vaccini. Sullo sciopero degli statali, come vi dicevo, troviamo vari pezzi sui quotidiani. Il Messaggero che ci dice esattamente questo. Il 9 dicembre c'è lo sciopero e diventa un maxi ponte festivo con Francesco Bisozzi, il quale ci dice che questo sciopero dei dipendenti pubblici proclamato per il prossimo 9 dicembre è destinato a far discutere appunto per le tempistiche, si svolgerà il giorno dopo la festa dell'Immacolata Concezione, un mercoledì. Risultato: gli statali svolteranno un maxi ponte. E qua viene riportata una parte delle contestazioni. La ministra della pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, che si dice attonita. I segretari generali della funzione pubblica, CGIL e CISL e UIL, di CGIL e CISL e UIL, che puntano il dito contro le poche risorse in manovra. Ieri abbiamo visto, abbiamo avuto ospite, come sapete, la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, la quale ha detto servono altri 600 milioni per il rinnovo del contratto. Ma le perplessità mi pare che in generale non siano tanto sul fatto che il sindacato chieda più soldi per un rinnovo di un contratto fermo da 10 anni, che ci può anche stare. Le perplessità sono proprio sullo sciopero in questo momento. Come si diceva, ci riporta bene Claudia Marin, il clima che si respira intorno a tutto questo sul Quotidiano Nazionale a pagina 4, c'è la ministra Dadone che dice questo: qualcuno pensa di bloccare l'Italia e mettere a rischio la già fragile tenuta sociale. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Ma ci racconta Claudia Marin che anche all'interno dello stesso sindacato la scelta dei rappresentanti degli statali viene criticata più o meno velatamente per l'effetto boomerang che produce dalle sigle del lavoro privato, dal commercio al turismo, dai metalmeccanici ai chimici, che fanno i conti con milioni di lavoratori in cassa integrazione e con la prospettiva di licenziamenti di massa a marzo. Tanto che nell'ambiente è comune una considerazione, qua ritorna la famosa ipotesi che era stata lanciata, se non vado errato, da Tito Boeri: altro che aumenti, dovrebbero avere la cassa integrazione anche loro, l'ipotesi di cassa integrazione per gli statali. Così le reazioni generali che arrivano anche dalle parti politiche, i 5 Stelle che parlano di scelta lunare, l'opposizione che parla con Giorgia Meloni di sindacato irresponsabile. Sicuramente se ne continuerà a discutere di questa questione. Come funzionano le cose in questo paese? Ora che sono in corso ancora le trattative sul recovery fund, e torneremo a parlarne più avanti, lo faremo alle 8.45 con il ministro degli affari europei Enzo Amendola, perché come vi abbiamo già raccontato ieri, ce ne stiamo occupando da qualche giorno, Polonia e Ungheria hanno bloccato al momento le trattative sul bilancio europeo, mettendo a rischio e a rischio ritardo il recovery fund. Beh, è giusto interrogarsi su: ma quando i fondi ci sono, noi siamo in grado di spenderli? La risposta è semplice: no. E ce lo spiega bene il Sole 24 Ore a pagina 5 con questo pezzo di Giorgio Santilli che ci dice che cosa è successo dei famosi piani per il rilancio delle città. Ah, quante volte l'abbiamo sentita questa storia. Arriva un piano per il rilancio delle città, mettiamo nuovi fondi per riqualificare le periferie, per riqualificare il territorio, per dare una nuova impronta urbanistica. Ebbene, cosa succede di questi fondi? Che molto semplicemente non vengono spesi. In 8 anni 21 piani fra nazionali ed europei, bandi, capitoli di spesa con risorse stanziate per un totale di 5,2 miliardi. Una cifra non trascurabile, che però è stata effettivamente spesa per una quota che non supera il 20%. Il tema è sempre il solito, e lo sapete. Meccanismi farraginosi e burocratici, iter inutilmente complessi, mancanza di coordinamento fra le varie iniziative. È un'altra delle possibili fotografie della rigenerazione urbana in Italia, scattata ieri dall'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, con il presidente Gabriele Buia in audizione alla Commissione Ambiente e Territorio del Senato. Fotografia di una frammentazione estrema, desolante, di tante false partenze, di una priorità politica dichiarata almeno a parole da molti anni, che non riesce a trovare una strategia, una politica stabile e condivisa, né un interlocutore, un punto di riferimento stabile e visibile, visto che fra le molte cose che vengono rimproverate alla politica è l'assenza, anche questa da molti anni, di una delega specifica per le aree urbane o metropolitane dentro il governo, un ministro o un sottosegretario ad hoc. E infatti viene richiesta una cabina di regia dall'ANCE. Poi bisogna vedere se le cabine di regia effettivamente funzionano. Questione vaccini. Dunque, avete sentito in GR24 appunto il pezzo che ci raccontava di questo sondaggio che ha degli aspetti scioccanti, se volete, perché un 15% degli italiani dice che sicuramente non si vaccinerebbe se arrivasse il vaccino anti-Covid. Il 20% dice credo di no e un 15% non risponde. Morale, arriviamo alla metà degli italiani che, come racconta Filippo Facci su Libero a pagina 3, che non vogliono o sono perplessi sul vaccino anti-Covid. È una situazione, dice Facci, in un pezzo molto lungo nel quale ricostruisce quello che succede all'interno dei movimenti Novax, è una situazione figlia delle incertezze di chi ci governa tra nostalgia e Novax e mancanza di programmazione. In tutto ciò, beh, andiamo sull'Huffington Post, dove un pezzo ci racconta, e lo potete trovare, il fatto che nonostante la Gran Bretagna su questo fronte sia messa molto meglio, perché la fiducia nel vaccino è piuttosto alta, ebbene, la Gran Bretagna sta preparando una strategia esattamente per combattere la disinformazione Novax. Ricercatori di tutto il mondo stanno conducendo uno sforzo formidabile che sta dando i risultati sperati. I primi vaccini potrebbero essere approvati dalle autorità competenti entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2021, ma l'opinione pubblica dei vari paesi è pronta a riceverli? In alcuni casi sì. In Cina il vaccino, la fiducia nel vaccino è al 97%, in Australia all'88%, in Russia solo il 54% degli intervistati sarebbe disposto a farsi vaccinare su due piedi. Il governo di Londra si sta preparando a una guerra di informazione contro i no Covid vax, un fronte che ci si aspetta particolarmente agguerrito. E dunque stanno già realizzando incontri con le aziende del Big Tech, Google, Facebook e Twitter, che hanno promesso di reprimere le cospirazioni e altri contenuti antivaccino sulle loro piattaforme. Molti esperti continuano però ad avere dubbi sulle reali capacità delle aziende tecnologiche di contenere la spinta degli antivaccinisti e forse anche su questo è il caso di pensarci presto. Mattino. Dunque, a proposito dei vaccini, chiudo il capitolo solamente con questo pezzo di Luciano Capone sul Foglio, nel quale apprendiamo, a proposito di quel filo di impreparazione che ci caratterizza, che non abbiamo ancora indetto una gara per comprare le siringhe. Voi direte, le siringhe, ragazzi, è una cosa semplice. In realtà no. Nei mesi scorsi il Ministero della Salute ha più volte fatto presente al commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri la necessità di approvvigionarsi delle siringhe necessarie per il vaccino, ma nulla è stato fatto. Aghi e siringhe sono elementi essenziali. Non si tratta di quelle di uso comune, ma di siringhe di precisione. Dato che i vaccini verranno distribuiti in fiale multidose, da 5 a 10 dosi, sono necessari dispositivi capaci di prelevare la dose esatta del farmaco, meno di un millilitro. Ogni minimo spreco, moltiplicato per milioni di dosi, produrrebbe un costo sanitario ed economico insostenibile. E però, appunto, gli ordini dagli altri paesi sono già partiti, gli ordini dall'Italia al momento non sono partiti, anzi Arcuri diceva nelle scorse ore centralizzeremo l'acquisto delle siringhe. Bene, ma si faccia rapidamente. Parlavamo prima di recovery fund e di questioni europee, il tutto se volete ci porta parzialmente alla politica, perché qua dobbiamo registrare su con Stefano Cappellini a pagina 12 del quotidiano La Repubblica uno scontro abbastanza netto, tra il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. La sua proposta, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è quella di eliminare, cancellare chissà come i debiti contratti per sostenere i costi della pandemia. Ebbene, qua Zingaretti se la prende tanto con Sassoli, quanto con Luigi Di Maio, che ritorna a dire che il MES, il fondo salva stati, il MES sanitario non serve, ebbene, il titolo è «Non riparta la gara a chi la spara grossa». Evidenziando evidentemente che rischiano di generarsi anche delle tensioni all'interno del governo. Questa vicenda evidentemente non è finita. E a proposito di soldi e di manovra, beh, il Fatto Quotidiano a pagina 7 ci porta su una pessima pratica che avviene in Parlamento, una pessima, viene denunciata ogni anno e ogni anno si ripete. Cosa succede? Quando si vara una manovra, viene stanziata una quota dei soldi per i deputati, ma non per le loro spese personali, ma per le loro spese di territorio, per venire incontro al loro elettorato e cose di questo genere. Ebbene, in una manovra già così complicata, con un paese che si prepara a uno scostamento di bilancio, un nuovo scostamento di bilancio tra i 15 e i 20 miliardi, quest'anno si raggiunge il record. E il fondo si chiama così, si nasconde sotto la veste di fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Ma sono i soldi che poi i deputati, tramite gli emendamenti alla manovra, utilizzano per aumentare, no? Esattamente per questo. Istituito ai tempi di Matteo Renzi, viene incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo viene ripartito ogni anno attraverso uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La lista degli interventi del passato non è commendevole, ci racconta Marco Palombi. Una serie di piccole sovvenzioni, a volte magari meritevoli, ma senza attinenza con una manovra di finanza pubblica. Ci racconta il Fatto Quotidiano. Occhio dunque a questi 800 milioni. Vi voglio segnalare in chiusura un buon pezzo, visto che abbiamo aperto i giornali, molti giornali aprono con l'appello di Mattarella all'unità tra le forze politiche. Un buon pezzo di Flavia Perina sul sito L'Inchiesta, che ci racconta dell'eccezione umbra. L'Umbria è l'unica regione, dice Flavia Perina, che ha affrontato la seconda ondata con raziocinio ed è l'unica governata da una donna. E Donatella Tesei, della Lega, ma leghista atipica, ha trovato l'accordo con l'opposizione, hanno stilato insieme un documento sulla pandemia, stanno arrivando al giusto livello di terapie intensive, dice Flavia Perina. Forse la sua diversità dal modello rissoso e parolaio dei colleghi uomini è solo momentanea, forse non approderà a nulla, ma al momento offre la conferma che c'è un altro modo di governare navi in tempesta, o almeno di provarci. GR.